sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Significa riscattarsi con una sigla del genere e partire dopo Giusy Ferreri, che era già a novembre, quindi già un po' triste, poi ancora a novembre. Invece noi torniamo indietro nel tempo, c'è anche un motivo dell'indietro nel tempo, anzi, queste una volta ritornano, perché nella diretta alla Salone del Libro di Sono Solo Nuvolette, io sono Fulvio Gatti, Fulvio De Cat, ho oggi avuto il piacere di avere ospiti Carlotta Borasio e Andrea Malabaila di Las Vegas Edizioni, che sono di nuovo qui. Buongiorno. Ciao. E il... Ok, devo avvicinare i microfoni. Ok. Il problema è, c'è stata anche mossa una critica poi su Facebook, giustamente, perché era stata una diretta ostacoli in cui ho sparato una sequela di minchiate da competizione e cercavamo comunque di condurre la trasmissione pur non sapendo quando avremmo dovuto cominciare, quando avremmo dovuto finire, eccetera. Quindi era stata una promessa di riavere se dico i ragazzi di Las Vegas è sessista. Ma guarda, può essere le ragazze, le ragazze di Las Vegas. Le ragazze di Las Vegas. I Las Vegas, stiamo sul I Las Vegas. Las Vegas Editrice è una bellissima realtà torinese dedita principalmente alla narrativa e adesso a titoli di saggistica molto particolari, tra cui l'ultimo di cui abbiamo la novità qui in studio, di cui avevamo accennato anche adesso che me ne avete... adesso che è uscito ho capito che c'era stato un accenno al Salone del Libro. Sì, non volevamo in verità fare troppi spoiler, ma poi alla fine eravamo troppo stanchi per mettere dei filtri, quindi ci siamo lasciati sfuggire più di uno spoiler. Ok, ok. Quindi adesso sappiamo, dietro la scena del crimine, di che si tratta, Andrea? Allora, un libro che parla di morti ammazzati, come dice anche il sottotitolo, che è Morti ammazzati per fiction e per davvero. Okay. L'autrice, Cristina Brondoni, è una criminologa e ha analizzato praticamente le differenze che ci sono tra la realtà e la fiction quando si tratta di morti ammazzati, di omicidi, di casi spesso che in realtà sono irrisolti, mentre nella fiction sembrano sempre risolvibilissimi, no? Ci sono questi detective che... in 448 spesso non sono neanche detective in realtà nella fiction, soprattutto in quella italiana tante volte sono professoresse barra fruttivendoli barra... cioè qualsiasi tizio capita per caso e riesce a risolvere gli omicidi più intricati. Nella realtà sappiamo che le cose vanno in maniera un po' diversa e quindi nasce Carlotta allo scopo di... fare un po' di distinzione tra la realtà e la fiction. Sì, non solo fare la distinzione, ma anche dare a chi vuole scrivere gialli gli strumenti per accedere alla realtà e trasformarla in fiction. Perché molto spesso la realtà è molto più interessante di quello che ci fanno vedere nelle serie TV o nei libri. Ci sono delle realtà o comunque dei fatti che possono essere sfruttati per costruire una storia non solo godibile, ma anche credibile. Ok, ok. Ma come è arrivato questo... come vi è arrivato questo libro In realtà in questo caso non c'è arrivato, è stata Carlotta proprio che l'ha... No, la storia ve la racconto perché fa molto ridere. Okay. Allora, dovete sapere che gli editori ricevono un sacco di mail da parte di scrittori esordienti. Un giorno arriva a me, che la mia email c'è scritto proprio ufficio stampa di fianco, quindi all'ufficio stampa voi i manoscritti non li dovete mandare, perché si mandano, noi li riceviamo solo in cartaceo, ma per chi riceve anche in digitale non è l'ufficio stampa che riceve i manoscritti, c'è la redazione, il redattore. Devono solo scegliere l'indirizzo di mail giusto e riescono a sbagliare anche quello. Certo, ovviamente. Ok, fantastico. Insomma, apro la mia mail una mattina e trovo questa mail di un poeta che scrive due righe di poesia con un errore dentro, una virgola tra soggetto e verbo, e non mi dite che era, come dire, una licenza poetica, perché non è così. Più licenza patetica in quei casi. Sì, esatto. E con scritto, vabbè, questa è una mia poesia, qui c'è il link a cui andare a leggere le poesie. Allora, fin lì non sarebbe tanto drammatica la cosa, nel senso, capita, quindi non è... è lo stesso livello delle mail di spam, comprate, sì, esatto, il Viagra, quelle cose così, no? Solo che il problema è che c'è qualcuno dietro che si è preso la briga di mandare quelle mail. No, ma non si è solo preso la briga di mandare l'email, si è preso... c'era tutta una serie di indirizzi, okay, in chiaro, okay, i cui cognomi iniziavano tutti per B. Ok. E questo vuol dire che questo si è messo lì, ha raccolto tutta una serie di indirizzi, ma tanti, perché già solo nella mia lettera eravamo in tanti, figuriamoci. Okay. E forse non era neanche tutta la B, c'era solo da O a R, una cosa del genere, insomma. In pratica sta di fatto che cominciano tutti a rispondere. tenendo in chiaro tutti gli altri, a insultare, insultare. In verità nella nostra diciamo sezione di lista sono stati tutti abbastanza gentili, tra cui anche questa Cristina Brondoni, che nella firma portava questo indirizzo che era www.tutticrimini.it. Ora io sto facendo la tesi proprio in scienza del crimine e letteratura, quindi non ho potuto non cliccare. Okay. Ho scoperto che aveva questo blog molto, oddio, carino, si parla comunque sempre di omicidi, però se TV, carino libri, in modo... scritto in maniera molto godibile e molto accessibile anche perché quelle cose lì non le affrontava dal punto di vista scientifico. Al che ho iniziato a seguirla, poi intorno al salone del libro gli ho detto: guarda Cristina, vabbè, mi conosceva già perché ci eravamo scambiati un po' di messaggi, gli ho detto: vieni al salone del libro che avrei piacere di conoscerti perché vorrei proporti una cosa. Insomma, cominciamo a chiacchierare e lei mi racconta che tra l'altro ha fatto un percorso stranissimo perché lei in realtà è laureata in non lettere. Non far troppo strada lontano dal microfono però, perché sennò scusa. Lei è laureata in lettere in genetica e però ha un master in criminologia, quindi insomma ha acceduto a una laurea o comunque un master che tendenzialmente ci immaginiamo specifico di, che ne so, medici, giuristi, psicologi, e invece nel suo caso veniva da lettere ed è stata una delle pochissime a fare questo percorso qui. Insomma, ci siamo scambiati diverse mail, diverse idee, diverse bozze, e alla fine è nato questo libro qua, perché appunto era anche la mia curiosità, cioè dov'è che inizia la fiction e dov'è che invece inizia la realtà. Dovevate chiudere l'introduzione al poeta però, perché la serendipità è infatti, lui che vi ha portato. Infatti lui non lo saprà mai, perché dubito che ascolterà questa trasmissione, però se non fosse stato per il poeta, con la virgola tra soggetto e verbo, noi non avremmo avuto questo libro. Esatto. E c'è tutta una scelta, Andrea, nei jolly, di fare della saggistica un po' cool, un po' smart, un po' pop. Prendiamo un termine inglese a caso. A caso. No, c'è anche un'idea di confezione anche molto particolare, non sicuramente di saggistica seriosa, giusto? Sì, in realtà questa è una collana che non sappiamo ancora neanche definire noi. Questo è proprio un titolo. Serendipità editoriale. In questo caso è proprio un saggio pop, potremmo definirlo, però gli altri titoli della stessa collana, diciamo che si barcamenano un po' tra fiction, non fiction, e sono tutti quei titoli che probabilmente non avremmo mai potuto pubblicare, che ci piacciono e infatti li stiamo pubblicando, ma che con la nostra collana classica non avremmo mai potuto pubblicare perché non rientravano nella narrativa pura. In questo caso proprio la narrativa è proprio molto borderline. C'è l'elemento di narrazione, in questo caso di scomposizione di una narrazione, di eventuale ricomposizione. Sì, poi anche il modo di come viene appunto scritto questo libro, perché uno pensa al saggio, pensa sempre a un testo accademico, noioso, e Las Vegas, noi le cose noiose non piacciono, e quindi già appunto il tono di questo libro è completamente diverso da quello che potrete trovare in libri analoghi, scritti magari da criminologi o molto tecnici. Qui ci sono sicuramente dei dati molto precisi, e quindi non è che stiamo dicendo, non è che sia una cosa, non è fuffa, però scritta in una maniera accattivante che possa venire incontro alle esigenze di tutti, no? Cioè, non solo a quelli specialistici o che hanno veramente intenzione di poi scrivere un giallo, come diceva Carlotta, ma anche uno che vuole togliersi qualche curiosità riguardo ai crimini, o che magari è appassionato di serie TV. C'è tanta distanza, vero, tra quello che viene mostrato nelle serie TV sulle indagini e la realtà? Ma proprio nell'introduzione Cristina racconta che lei, quando è andata a parlare con un investigatore del New York Police Department, gli ha chiesto che valore avessero gli scienziati forensi nell'indagine. Questo signore gli ha detto: noi siamo qua, e ha alzato la mano sopra la testa, e gli scienziati sono, e ha abbassato la mano molto sotto la testa. Questo per capire, però questo era un'opinione, era la sua visione delle cose, quindi bisogna vedere se poi le cose sono effettivamente così. Però credo che gli scienziati forensi vengano interpellati proprio da chi fa le indagini. Poi insomma, noi vediamo sempre nelle serie televisive, nei libri, che uno arriva, fa tutto, prende le impronte, fa l'indagine, fa gli interrogatori. Invece nel libro viene spiegato che queste fasi sono molto più frazionate, chiamate e ognuno ha le sue competenze. Quasi sempre penso che siano necessità narrative di per sé, ce lo insegna Aristotele che la buona narrazione è una semplificazione della realtà. Sì, ma a volte si semplifica un po' troppo, facendo l'esempio che dicevo prima, no? In queste fiction in cui c'è la professoressa di turno, anni fa mi ricordo che c'era anche la tassista o il tassista, insomma, cioè proprio delle professioni che non c'entrano niente con i crimini, che invece si scopre che questi tizi hanno questa doppia vita e tra l'altro sono molto più bravi dei professionisti. Tutto questo, insomma, nella realtà avrebbe poco senso. Beh, sono, diciamo, eredità di Sherlock Holmes, che era appunto, non era un appartenente alle forze dell'ordine, era un amateur, diciamo appunto un dilettante tra virgolette, che però spesso dava, come dire, filo da torcere alla polizia. Però erano altri tempi, non si parlava ancora di scienze forensi come se ne parla oggi, e oggi se vuoi fare questa cosa qua, cioè prendere una persona comune e buttarla negli omicidi, devi fare un bel lavoro di contorno, devi essere proprio tanto credibile. Ok, ma quindi vi sciroppate tutti, vi siete sciroppati tutti i CSI o... No, io li odio. Ah, ok. No, facciamo... sono più io l'appassionata, okay, di queste cose. Non me li sono sciroppati tutti, ma ho visto un buon numero di ogni puntate. Tanto cerca di farmi vedere queste cose ora di cena o appena finito di mangiare, così. Vabbè. Gente squartata. No, non è proprio il mio ecco, qua si parla anche di gente non squartata, ma di come si muore, come evolve il cadavere nella sua... Come dire, nella sua decomposizione, sì, ma okay, non solo, anche quello che quindi rigor mortis, tutte queste cose qua, vi consiglio di leggere. Una lettura piacevole del dopo cena, quindi. Sì, esatto, lo consiglio a tutti. Invece, la figura dell'indagatore è sicuramente un po' fuori dagli schemi, è parte della letteratura, da Sherlock Holmes, Miss Marple, che comunque sono citati nel libro, tutti questi indagatori fuori dagli schemi. C'è anche un altro indagatore fuori dagli schemi che non ho ancora tirato fuori, quindi ci tocca. No, non sto... A chi sto pensando? Don Matteo, sì, esatto. Questo è un tormentone su cui torneremo dopo e spiegheremo che c'è anche un retroscena di questa cosa di Don Matteo che era uscita fuori. Andremo alla baila, non guardi Don Matteo, lo sappiamo, lo ribadisci e... Però c'è un motivo, questo l'ha detto Gianluca Morozzi, e c'è un motivo, e potremmo cominciare i Fact Files su Don Matteo, che in realtà è Terence Hill, quindi non potrebbe spaccare i culi come Chuck Norris. Questo potrebbe essere un nuovo... Ne parliamo fuori onda, perché sto divagando, e lanciamo la prima canzone, visto che c'è la nebbia, visto che prima Giuseppe Ferreri ci aveva fatto... preoccupare a novembre eccetera, e noi invece andiamo negli anni 50, c'è un motivo anche per gli anni 50, è base del rock and roll, Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock. Solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio Fulvio Gatti. stavamo cercando di strappare via questa patina di nebbia e di viaggio verso l'inverno con un pezzo anni 50 che non abbiamo sentito neanche noi perché ci siamo distratti. Poteva essere, probabilmente potevano anche passare DJ D'Alessio in sottofondo, inutile no. Fare il DJ, non ce ne saremmo accorti. Carlotta Borasio, Andrea Malabaila, Las Vegas Edizioni, vi avevo promesso di riportarvi qui per una puntata intera e ci siamo. Siamo qui per parlare dell'ultimo libro, ma anche della Collana Jolly, di cui è uscito anche un altro simpatico libro che si intitola Ho sposato mia suocera. Andrea, vi sta dando delle soddisfazioni quel libro? Anche alle suocere della soddisfazione, ma soprattutto ai generi esauriti. Visto che in quel caso invece il sottotitolo è Memorie di un genero esaurito. E sì, è un titolo che sicuramente crea attenzione perché... ci sono tanti nelle condizioni dell'autore, forse proprio nelle sue, non lo so, perché è una situazione un po' limite, però appunto racconto delle disavventure di questo genero che deve avere a che fare con una suocera molto invadente, quindi è uno sfogo per lui, ma anche una consolazione per tutti gli altri, perché sicuramente nessuno si troverà mai in casa una suocera del genere. Ok, che tra l'altro non stiamo, è sotto pseudonimo quel libro lì, per tutta l'incolumità probabilmente viaggia dell'autore. Anche con la scorta, ormai teme che dietro all'angolo si nasconda la suocera con il libro che ha scoperto tutto. Ok, Carlotta, il commento più strano che abbiamo fatto riguardo quel libro? Ma vabbè, a parte il fatto che ci sono tante persone che passano, lo indicano, magari vedi, non so, la ragazza che lo segna al ragazzo, il ragazzo che ride guardando la ragazza, sai, con cenno di intesa. No, commenti strani devo dire. E poi non comprano perché quelli i neuroni li hanno lasciati a casa. Il gesto stesso di indicare probabilmente preclude ogni altra forma di ragionamento. Sì, esatto. No, vabbè, dipende, qualcuno lo prende anche in mano. Però insomma, il titolo attira molto l'attenzione. La grafica della copertina, che ci tengo a dirlo, l'illustratore si chiama Alessio Furfaro. È il suo, diciamo, le copertine di questa collana sono di sua proprietà, cioè fa tutto lui, noi diciamo questo è il libro, leggilo, lui fa e noi accettiamo. Okay. Vedrete la prossima copertina, il prossimo Jolly che uscirà a dicembre, quella è molto molto bella, come tutte le altre. Quindi vi ha preso la mano, avete già un altro Jolly? In realtà ne abbiamo due, ce ne sarà uno a inizio marzo. Ma sì, no, quello su cui... Già spoilerà di nuovo, così poi dopo siamo obbligati a tornare. Esatto. Scusa, te dispiace? Sì, a me no, In questa bella biblioteca. Vagamente, di cosa parlano? Poi non come in questo caso, che in realtà mi avevi detto l'intero sottotitolo, quindi... No, allora, vi dico il prossimo, diciamo che è dello stesso autore di Caro scrittore in erba. Okay. Prima si parlava di scrittori. Che peccato, adesso, ma sì. Perché proprio lui, perché fargli pubblicare un altro, il terzo libro? Ah, Gianluca. Quarto. Mercadante, ma perché? Ma perché fate pubblicare Gianluca? Perché? Perché? Perché non fai il parrucchiere, va? Ah no, io questo non mi sarei permesso di dirlo, no, per carità. Ma figurati. No, vabbè, no, che scriva. Anzi, con questo libro diventa proprio il nostro autore più affezionato. Perché sì, è vero. Diventerà, essendo il quarto vabbè, libro. Vabbè, comunque se è un libro di Gianluca Mercadante non lo voglio sapere. Quindi l'altro? L'altro sarà sul cinema. Okay. È molto molto divertente, sarà una new entry nella nostra scuderia, però esce a marzo, quindi vabbè, non vi dico altre cose. Va bene, nient'altro. E invece il primo, questo Caro scrittore esordiente, ah no, io non posso parlarvene perché è di Gianluca Mercadante. Vabbè, vi ha dato il titolo però per cui è nato, avete coniato la collana. Sì, diciamo che l'idea ce l'avevamo già da un po', no? Di fare una collana un po' diversa rispetto alla narrativa, proprio perché tutti ci dicevano che la narrativa non vende. No, con la narrativa ti vai a scontrare con tutti i giganti, se tu invece ti crei magari una collana più particolare, riconoscibile, e magari sai, riesci a farti notare un po' di più. E quindi... quello è stato il titolo che ha aperto e inaugurato la collana. Però poi, appunto, una collana che stiamo ancora... cercando di definire, ma potremmo anche lasciarla abbastanza indefinita. Sì, chiamandosi Jolly mettiamo un po' tutto quello che ci piace, che non è convenzionale. Ok. Che non è proprio narrativa, diciamo. Ok. Invece, tornando al futuro, non nel senso in cui pensate voi, di quello ne parliamo dopo, ma Las Vegas Edizioni, e questo ci conosciamo oramai da un po' di anni, ma non lo so. Andrea, come nasce? Come nasce? Nasce da un momento di pazzia. Vabbè, questo a prescindere, chiunque abbia a che fare con la cultura, qualcosa di... Nasce nel lontano 2007, in realtà poi i libri sono usciti nel 2008, ma insomma prima di far uscire i libri comunque ci voleva un certo lavoro, perché dovevi prima di tutto trovarli. Io all'inizio pensavo che sarebbe stato molto difficile trovare qualcuno che ci potesse mandare dei manoscritti, invece su questo mi sbagliavo clamorosamente, ed era l'unica cosa su cui ero molto pessimista, invece doveva essere l'unica cosa in cui dovevo essere molto ottimista. E poi appunto gennaio 2008 sono usciti i primi titoli e da lì è iniziata una storia che ormai ha già qualche anno e che magari non sono tantissimi, però per una casa editrice, visto i tempi... Siete a quota? 34 titoli, 7 sa anni. Anche sa anche il numero esatto, quindi sì, ragazzo preciso. 34 sul campo. Ok. E quindi appunto all'inizio avevo chiaramente un'idea un po' astratta di quello che saremmo andati a pubblicare, poi man mano si crea il catalogo, le idee si diventano un po' più precise. No? Ok, Carlotta, hai conosciuto prima Andrea o prima la casa editrice? Prima la casa editrice, in effetti. Wow. Non so se avevo raccontato già questa storia, ma la riracconto volentieri. No, non sicuramente nell'altra radio, perché rincorrevamo dei giusto, tempi, non capivamo, facevo delle domande sconnesse, delle battute sconnesse, non peggio di adesso, però... Insomma, in pratica io volevo fare uno stage in una casa editrice, okay. Per stage, scusate. E... quella cosa lì che tanto è fuori moda, quindi sì, esatto. Lavoro non pagato da qualche parte. E in pratica un mio contatto mi ha dato l'indirizzo di Andrea, io gli ho spedito il curriculum, tra l'altro col numero di telefono sbagliato. Vabbè, così. E poi il 10 settembre del 2008 ci siamo incontrati davanti a Palazzo Nuovo, dove c'è l'urlatore, sai quel coso qua, okay, sì. Quella roba lì, e abbiamo chiacchierato. È comparso che ero già da quelle parti, ero da quelle parti nel periodo in cui è comparso. E quindi niente. Ancora mi chiedo cosa sia, però. E ho cominciato a farlo, appunto, a occuparmi di diverse cose, prima di impaginazione, poi mi sono allargata sui social, mi sono occupata, cioè mi occupo tuttora di conversione digitale, insomma, e poi vabbè, dell'ufficio stampa, quindi sono io che molesto giornalisti e blogger perché leggano i nostri libri, ma devo dire che si fanno molestare volentieri, quindi niente. Bisogna quindi... molestare i giornalisti e blogger, proprio... Sì, sì, è proprio il lavoro molestatore di giornalisti e blogger. E devo dire che... E quindi la fama di Las Vegas mi precedeva. Ok, fantastico. È già qualcosa. Tra l'altro con una ragazza che lei non l'ha detto, ma stava in Sicilia. Quindi... Ah sì, perché quindi... in pratica anche lei allora faceva l'editore, questa ragazza che mi ha dato il contatto, però mi ha detto ovviamente io non ti posso far fare lo stage qua, perché nel senso è infattibile, però ti do il contatto di un ragazzo di Torino, molto affidabile, tu contattalo. E io ci ho messo quasi 24 ore soltanto a scrivere la mail. Tra l'altro che poi ho riletto di recente, faceva accapponare veramente il cervello. Ma poi soprattutto quanto... che avessero detto che eri affidabile, qualcosa di... Sì, sì, infatti è strano, anche perché non mi conosceva. Evidente. Ah, okay. Anche lì era un contatto molto virtuale, ci eravamo conosciuti, sì, sì, su Anobi. E io e questa ragazza ci eravamo conosciuti sul Writer's Dream. Ah, ok. Che tra l'altro sulla chat principale, quindi insomma mentre si faceva chiacchiera io ho detto mi piacerebbe fare uno stage in una casa editrice, lei mi aveva contattato in privato e mi ha detto guarda io non posso fartelo fare qua, però tutto molto casuale. Sì, sì, proprio sarebbe divertente capire come cosa sarebbero le nostre vite senza internet, dalla nostra generazione in avanti. Cioè, ma la cosa assurda, molti pezzi vanno, sì, fanno infatti, clac solo grazie a quello. La cosa assurda è che io sono di Cantalupa, che è un paesino minuscolo di 2000 persone. Ma la cosa divertente è che lui è venuto diverse volte a Cantalupa quando era bambino, perché c'era un campo da calcio che era aperto e quindi lui voleva ci e beh, è fin lì, vabbè. E vabbè, però io non ero nata, quindi ciao. E poi ci è venuta a presentare Bambole Cattive a Green Park. Il problema è che due volte. Il problema è che un anno io forse proprio non c'ero perché ero in soggiorno estivo, comunque non. E un altro anno mi ero rotta una gamba e quindi non riuscivo neanche a scendere le scale di casa, figuriamoci andare a... Quindi non ci siamo incontrati per tutta una serie di motivi. Erano figli del destino che non erano ancora pronti per maturare. Sì, davvero. Vabbè. No, beh, qualche volta poi scriverete anche la storia di Las Vegas Edizioni, che credo che ci sia anche un po' di storia da raccontare. Quanto infatti, meno è una cosa che Carlotta mi dice tutti i giorni. Sì, anche raccontare come troviamo i libri, i rapporti che abbiamo con i nostri autori, perché comunque si è creata proprio una bella squadra di persone affezionate, anche insomma, la storia delle storie, no? Quello che c'è dietro, quando questo alla fine è il prodotto finale, però poi il libro non è fatto solo di, insomma, contatti, manoscritti, carta, è anche fatto di rapporti personali che crescono, anche perché, insomma, devi lavorare con persone con cui tutto sommato ti trovi abbastanza bene. Se poi ti odi tutte le volte che c'è da fare una correzione, scatta il delirio. Diventa un po' complicato, esatto. Quindi non volano spesso le posate in sede di Las Vegas Edizioni? Niente lanci di piatti, niente posate a portata. Nell'altra stanza. No, direi di no, lavoriamo abbastanza bene insieme, poi ognuno ha le sue competenze, ovviamente ci parliamo, ci scambiamo idee, ci scambiamo anche cose da fare, però tendenzialmente ognuno ha le sue competenze, cerchiamo di tenere fuori la vita privata dal lavoro e il lavoro dalla vita privata, però spesso è molto complicato. Ok, però alla fine poi sono anche gli stessi elementi della vita privata che arricchiscono i momenti del lavoro. Quindi... certo, sì, questo è vero. E, lancerei la seconda canzone. Siamo molto easy oggi, non sto minchioneggiando neanche troppo. Forse visto, devo restituirvi un po' la puntata che avevo rovinato al Salone del Libro, quindi di per sé siamo molto sobri oggi, stranamente sobri. Secondo pezzo, non mi ricordo più cosa abbiamo messo. Ah sì, l'ha scelto Carlotta, quindi annunci il secondo pezzo. Who are you? No. No? Ecco. Cosa abbiamo scelto, scusate? Ah, Psycho Killer dei Talking Heads. Vai. Oh, Sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E questa è sempre solo nuvolette con questa meravigliosa sigla, grazie a Matteo Cantamessa, maestro Jedi qui di una parte digitale, grazie ad Alessandro in regia che mi sopporta, non mi ha ancora tirato oggetti in faccia, nonostante ogni tanto io sbrachi, io sistematicamente sbrachi. Qui in trasmissione con noi oggi Carlotta Borasio e Andrea Malabaila di Las Vegas Edizioni. Allora, su queste frequenze digitali parliamo sempre del discorso dell'essere nerd, e qui c'è un oggettivo problema. Perché fuori onda Carlotta ha spiegato ad Andrea di cos'era questa sigla. Andrea, come fai nel 2015 a non essere nerd? Che cosa hai un vaccino? Ci spieghi, perché ho dovuto superare quella. No, ma in realtà, è che Guerre Stellari ormai è un po' di tempo che dobbiamo rivederlo. Non è che mi ricordo tutto, soprattutto io non mi ricordo molto le colonne sonore dei film. No, è vero, io su quello più orecchio me le ricordo più volentieri. Cioè, mi ricordo se è una canzone che conosco, allora poi ti stai arrampicando sugli specchi. La domanda è: come fai a non essere per niente nerd? Quindi, Ritorno al futuro, però sì. Ritorno al futuro, sì. Ghostbusters? L'abbiamo rivisto recentemente un po', insomma. Sì, però è invecchiato male. Goonies, sì, più che altro per come reminiscenza infantile degli anni 80. Però vabbè, Torno al futuro invece è quello proprio che incontri avvicinati del terzo tipo? Ma insomma, non tanto. Poi e andiamo avanti. Ho assunto lo sguardo, perché è stato il primo film che ho visto, non di animazione, che ho visto al cinema, quindi ero molto piccolo. Ah, beh, vabbè. No, ma poi lui ha tutt'altra mania, tipo lui si ricorda tutte le statistiche del Cuneese Calcio del 1900, del 1865, quando ancora il calcio. Quindi abbiamo capito, l'unico vero anticorpo a essere nerd cinematografico di cultura pop è essere nerd del calcio. Tu sei nerd del calcio? Ma abbastanza anche su altri sport, Nerd dello sport. Ma no, ma poi anche. Perché non tutti sono come il grande Sheovan, il grande visir di tutti i nerd piemontesi, che è anche un nerd di sport, Stefano Priarone, giornalista della Stampa. Ma invece, quindi c'è un'altra forma di conoscenza proto-nerd che occupa le tue sinapsi. Ma in realtà sono abbastanza tuttologo, nel senso che mi interessa la musica, mi interessa anche il cinema, al di là del fatto che non mi ricordo le colonne sonore. Questo continuo a ribadire. Cioè, se c'è una canzone che conosco, allora dico, guarda, se andate a vedere i Minion, e conoscevo tutte le canzoni che c'erano, no? Perché c'è stata tutta questa scelta di canzoni anni 60. Ah, certo. Ma lì è perché è un riconoscimento al contrario. Invece, se ci fossero state delle musiche originali, poi probabilmente l'avrei rimosse. Lì è questione anche associazione alla scena, alla riconoscibilità della canzone. Cioè, ci sono tanti elementi. Adesso non è che dobbiamo per forza usarti la tirapugni oggi. Però c'è questa faccenda di Don Matteo che dobbiamo adesso sviscerare, perché ho visto che Max Valentini ha domandato. Non vi dico che sofferenza tutte le volte che c'è Don Matteo, accende la TV tutta la serata. Maratone di Don Matteo. Allora vorrei ribadire che non ho mai visto. Andiamo al cinema a vedere, che ne so, Star Wars? No, io devo vedere Don Matteo. Perché dovremmo andare a vedere Star Wars prima che esca Star Wars? Vabbè, per dire. No, Don Matteo è... Allora, questo lo dobbiamo spiegare. Alla puntata al suono del libro di Sono solo nuvolette, Gianluca Morozzi, in una puntata che è andata persa, e quindi le spie Mossad di Andrea hanno aspettavo di ascoltare. Ha fatto sparire, e guarda caso è sparita quella puntata lì. Quando accennavamo all'antologia Prendi la DeLorean e scappa, di cui parleremo nei dettagli dopo, ho fatto la battuta che sì, ma Andrea non è abbastanza nerd per pubblicare certe cose, com'è sta storia? E Gianluca Morozzi fa: ah, ma allora guarda Don Matteo. Al che si è creato questo tormentone. Andrea continua a negare, adesso però Carlotta fa da sponta, quindi hai deciso che invece è così. L'altra alternativa, mi sono ricordato che l'altra battuta di Gianluca Morozzi sul non essere nerd, oltre a guardare Don Matteo, era guardare La Signora in Giallo. Guardi La Signora in Giallo? No. Sì, che la guardo, non mi fa vedere CSI per La Signora in Giallo, la donna in giallo, vabbè. Quella del Pocket Coffee. Quella che uccide, lei che ovunque vada è lei che uccide qualcuno e poi esatto. O porta una sfiga tremenda. E comunque, Murder, She Wrote, qualcuno. Sì. C'è anche l'altra teoria per cui in realtà sia lei l'assassina. No, queste erano i due non nerd. Quindi non ti riconosci in questa casistica, no. Del non nerd? No, sono semi nerd, nel senso non lo so, cioè peccatucci ben peggiori da dichiarare. Non mi sono mai etichettato. Vabbè, adesso non vogliamo sapere perché no, peccato. No, ma nel senso, senso televisivi, cioè? Nel senso oggi inizia il grande. Non voglio fratello. Rovinare famiglie no. Oggi, Vabbè, non fate che non mi hai fatto vedere, ma comunque, non voglio rovinare famiglie. Qui sento della tensione dell'aria involontaria, quindi per carità. Per vabbè, carità, mi fa per vedere carità. Il Grande Fratello, vorrei anche vedere. Ma non è vero. Cioè, no, ma non la cosa la divertente vedere. È che il Grande Fratello, quando te la racconta lui, sembra fichissimo, cioè sembra... Quando la raccontavo, quando... Sì, infatti, mi ma perché poi guardavo. C'è lei, perché la, cioè, vedeva cose che secondo me assolutamente non c'erano. Però... creare storie vuol dire creare è anche legami a dove il non Grande ci sono. Fratello. Ma davvero non volano le posate a casa vostra, perché... Volano libri. Volano libri. Beh, volano, i libri fanno meno male. Poi comunque un, ne abbiamo tanti. Uno si prende la testata da un libro, magari si ferma, lo legge. Potremmo inventare un format, la trasmissione in cui ci si tirano i libri. No, poveri, bene, va i bene. Libri. Noi li forniamo a prezzi scontati. Io posso arrivare con i cartonati. No, vabbè, tipo... copertina morbida, dai, non peggioriamo la situazione. Ok. E comunque, dopo aver sbraccato completamente, andremo alla baila, dopo averti usato come tirapugni, invece ti faccio una domanda seria, che è, tu comunque prima di essere editore sei scrittore, giusto? Sì, prima. Proprio. Prima. Durante anche. Durante anche. Anche durante. Dopo, spero. Cioè, anche ma prima fatto... cronologicamente, nel senso, prima tu sapevi a cosa andavi incontro, perché eri scrittore, sapevi cosa andavi incontro diventando editore, e no. Nonostante tutto l'hai fatto. No, infatti non lo sapevo, è quello che dicevo prima, che diciamo che sopravvalutavo certe cose, sottovalutavo altre. E, sì, l'idea era che comunque nella serie scrivendo non si può vivere, però facendo gli editori perché no? E invece perché no? Perché in realtà è anche complicato riuscire a sopravvivere facendo gli editori. Diciamo che la situazione editoriale è peggiorata giusto sì, negli ultimi 15 anni. Quello sicuro. Poi noi abbiamo, dicevo prima, gli anni in cui abbiamo aperto Las Vegas è stato proprio in concomitanza precisa con l'inizio della crisi. Quindi poi chiaramente, però dici, se inizi in un momento di grande difficoltà, tanto l'inizio è sempre difficile, poi non puoi che migliorare, quindi noi esatto. Ci aspettiamo grandi risultati, grandi, infatti grandi sta già migliorando. Sicuramente. Diciamolo, e così è, perché comunque la produzione continua. La media, 6-7 titoli all'anno, quanto siete? All'inizio di più, perché comunque dovevamo crearci un catalogo, negli ultimi anni sono usciti un po' meno titoli, e quest'anno adesso uscirà il quarto, ne facciamo pochi ma buoni. Sì, anche perché bisogna trovare i testi giusti, e posso assicurare che trovare buona narrativa, ma come in questo caso anche buona saggistica barra varia, non è semplicissimo, ecco, cioè tanto bisogno di buoni scrittori, e non nel senso che la gente deve scrivere di più, ma che dovrebbe leggere di più, scrivere okay. Con un po' più di oculatezza, ecco. Nella miliardi, nella mole di manoscritti che ricevete, si riesce a accorgersi al primo colpo? Questo chiedo a Carlotta, se è qualcuno che legge o qualcuno che non legge, giusto? Sì, tendenzialmente già da come è impostato il manoscritto, cioè da come è impostata la pagina. Se vedi un crivellato di puntini di sospensione, peraltro in numeri variabili da 3 a 8 a 10, vuol dire che questo non ha mai preso un libro in mano, perché te ne accorgi, insomma, se una cosa si può fare o non si può fare. Okay. Quello è proprio una spia. Però comunque anche andando avanti ti rendi conto che su cose basilari che non c'è storia, cioè ti raccontano i fatti loro e tu dici sì vabbè, ma è un romanzo, mi devi raccontare una storia, deve succedere qualcosa. Oppure proprio la costruzione delle frasi che mancano proprio sia di stile, non di ricercatezza, perché ricercatezza dà l'impressione che devi usare il parolone, invece spesso è il contrario, cioè usare 10 parole molto buone per dire quello che vuoi dire, e invece magari ne usano 1000 per non dire assolutamente niente, le usano anche montate in maniera sbagliata e ti dici sì vabbè, ma questo non ho mai neanche letto, non so, la lista dei programmi TV sul televideo, cioè qui mancano proprio le basi. Quando diciamo queste cose sembriamo molto snob, perché la gente non si rende conto di cosa arriva in casa editrice, ma non vuole essere uno stimolo per chi scrive a essere anche ambiziosi, no? Non umili, al contrario, essere ambiziosi, cercare di fare il meglio possibile. Poi vabbè, la prima scrematura fortunatamente la fa Andrea, non la faccio io, però insomma vedo quello che arriva ed è veramente drammatico. Ma dell'ordine di il peggior manoscritto che hai letto in tempi recenti, di cosa si trattava? Ma in realtà in tempi recenti stiamo leggendo poco perché siamo impegnatissimi, quindi infatti abbiamo anche bloccato l'invio dei manoscritti per un certo periodo. E prendete fiato, è qualcosa che da fuori sembra oh mio Dio, ma in realtà... No, scommetto che... dobbiamo, no, perché tra un po' veramente non volano le posate in casa perché non c'è più lo spazio proprio tecnico per lanciarsele perché i pacchi aumentano. E stufa? No, vabbè. Stufa, io tantissimo stufa, tanto stufa. No, non era quello il... No, no, la cosa classica brutta è quando si fanno ambientazioni... un po' esotiche, no? Classicamente americane, perché fa più figo ambientare i romanzi in America, di gente che però non sa assolutamente come è fatta l'America, ma neanche che ha visto i film, perché più o meno già lì un'idea più o meno te la puoi fare, no? Invece che scrivono cose assolutamente senza senso. E allora dici, boh, poi tu, se sei di Settimo, ambienta la storia Settimo. Non è che per forza deve essere... quantomeno a Torino, che cioè, insomma... Non è che per forza sì. Sei a Settimo è meno interessante, no? Anzi, potrebbe essere anche un po' più originale come cosa. Beh, qua c'è tutto un discorso più ampio di ciò che è ritenuto da chi non legge come più interessante, allora... o anche un'alterità, credi di poter costruire una storia più interessante ambientandola altrove, ambientandola negli Stati Uniti, o magari ancora ti ispiri a film, però senza veramente ispirarti a film. C'è tutto un... la maggior parte dei manoscritti che ricevete c'è una storia ambientata negli Stati Uniti? No, maggior parte no, però una buona parte. Sì, non, secondo me appunto... non hanno neanche guardato con attenzione questi film, non solo non hanno colto la colonna sonora, ma proprio l'hanno visti, cioè, potrebbero essere ambientati tranquillamente in un'altra galassia lontana e no, sarebbe stato tutto uguale. Sommato più onesto. A quel punto prendi atto del fatto che non conosci l'America, non la conosci, quindi inventati piuttosto una città, una nazione, sì, non dare riferimenti precisi. Sì, cioè... ma immagino che a quel punto lì ci sia già un processo creativo maturo. Purtroppo il manoscrittaro compulsivo non ha niente a che fare con qualcuno che crea veramente contenuti. O anche romanzi storici, è molto complicato scrivere un romanzo storico perché se non è più che ben documentato vuol dire scrivere poi mucchio di castronerie. E invece sembra che, ah sì, perché mi piace così il periodo medievale e ambiento... in quel periodo lì, sì, ma devi sapere poi in realtà come funzionavano le cose, come parlava la gente. Io una cosa del genere non mi metterei mai a scriverla perché è molto complicato. Cioè, sarebbe veramente, rischierei poi di fare la rimasticatura di qualcos'altro che hai così, magari letto, visto, però di cui non hai nessuna prova concreta, no? E invece ed è uno dei motivi per cui io odio il fantasy, faccio un altro lancio un altro perché strale. Non hai mai letto nulla, come no, ma perché mi sembra anche questa un po' una scorciatoia, no? Nel senso, invento cose, però anzi dovresti essere ancora più credibile per riuscire a creare un mondo nuovo. Ma infatti i veri lettori di fantasy questa cosa la sanno molto bene, che devi fare un mondo sì, che ma sia i veri lettori di fantasy non sempre sono poi lettori così. Vabbè, mi sto lanciando, adesso riceverò insulti da chiunque, però sì, tante volte il lettore di fantasy non è che sta lì a guardare per i sottili. Ma guarda che ho l'impressione che anche i lettori di gialli, perché leggendo questo libro qua ti rendi conto che c'è tanta gente che parla di gente avvelenata da quella tal sostanza che magari in Italia non esiste neanche, oppure di... insomma, che vanno a anche quando devi pensare a un omicidio o un giallo, devi essere molto sicuro di cosa, delle cose di cui stai parlando. Se quell'omicidio effettivamente nel tuo paese è possibile, non voglio dire dire alla gente andate ad ammazzare la gente in giro per vedere se potete scrivere un giallo, però quantomeno informatevi sulle armi, su come funziona la nostra giustizia, su... appunto, se sono presenti i veleni, se... Beh, c'è un elemento di documentazione, di costruzione del mondo, di coerenza del mondo, che sia fantasy o che sia thriller, ma anche in una storia realistica, comunque se ambienti da qualche parte e poi non conosci veramente il posto, c'è un problema. Sì, addirittura Andrea mi ha mandato in missione a Porta Susa perché voleva sapere per un suo romanzo se da fuori Porta Susa si sente no vabbè, perché in effetti per andare a lavorare passavo di se da fuori Porta Susa si sentiva il rumore dei treni. Ora io dubito che tu leggi una cosa in un romanzo e vai effettivamente a verificarla. Beh, questa però è precisione, esatto, e credibilità. L'hai tolto? Non voglio dire, ma tra l'altro poi la precisione è una cosa molto nerd, quindi rifà punti e torna dei nostri. Carlotta, ti faccio annunciare il prossimo pezzo. E qui ci lancia l'assist per parlare poi nell'ultimo quarto di trasmissione di una certa antologia. E infatti la prossima canzone è Back in Times. Time. Vabbè, è... sto sbagliando the tutto. You Lewis and the News. Solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Ed era You Lewis and the News, il bassista è Mario Cipollina, fratello di John Cipollina dei... Happy Trail, il disco Happy Trails. Vabbè, ho fatto la banfata, volevo fare sfoggio di cultura musicale e mi sono dimenticato. Però ho riconosciuto la sigla, era quella di Guerre Stellari, se non sbaglio. Vergognati. Too late. Troppo tardi, non si arrampichi sugli specchi, Malabaila. Andrea Malabaila, Carlotta Borasio, Las Vegas Edizioni, che come l'assist di questa canzone ci ha fatto lanciare, hanno pubblicato questa antologia prendi la DeLorean e scappa, omaggio al Ritorno al Futuro. Ne abbiamo parlato in radio in quella famosa puntata Ostacoli con le varie difficoltà. A qualche mese di distanza, vi sta dando delle soddisfazioni questa antologia? Sì, decisamente, e clamorosamente, anche perché di solito le antologie fanno sempre molta difficoltà, perché il lettore medio non vuole leggere racconti, tantomeno racconti di autori diversi. Quindi noi furbescamente all'inizio ne abbiamo stampati meno rispetto agli altri libri e abbiamo dovuto ristampare, adesso dovremo di nuovo ristampare. Quindi da una parte molto bene, perché vuol dire che l'antologia sta andando alla grande, però insomma, ci siamo fatti male i calcoli. Vabbè, fare male i calcoli per un risultato positivo in genere... Sì, di solito il calcolo è sempre sbagliato al contrario. Quindi, di per sé. Il commento più particolare che avete ricevuto, Carlotta, su questa antologia? Ne direi uno positivo e uno negativo, okay. Nel senso, positivo, tanta nostalgia, sono tornato indietro nel tempo, okay. Mi ricorda quando ero adolescente, quindi devo dire anche un po' quello che volevamo fare noi, un omaggio più che altro al film. E poi di per sé Ritorno al Futuro si gioca sulla nostalgia di per sé, la trama stessa di Ritorno al Futuro gioca sulla nostalgia, quindi... Sì. Avete giocato un po' sugli aspetti emotivi del film stesso, al di là del film. Sì, infatti, l'intento poi era quello. Forse quello che non è stato tanto compreso è che non era una raccolta di fanfiction. Cioè, molti ci hanno detto, sì, ma qui i personaggi di Ritorno al Futuro dove sono? Cioè, dov'è l'ambientazione? Allora, ci sono due motivi. Intanto non era nostro interesse fare una raccolta di fanfiction, perché quelle le trovate gratuitamente ovunque, e l'idea era di creare delle opere separate e appunto degli omaggi. Gli omaggi non sono né copie né plagi né appunto... Infatti ci sono delle storie che sono totalmente slegate, hanno un flavor vagamente, sì, esatto, di Ritorno al Futuro, nient'altro. Magari hanno preso proprio lo spunto della macchina del tempo, come quello di... O nel viaggio letterario, cioè ci sono ben due autori che hanno scelto di prendere proprio come tema principale, in modi diversi, un viaggio quasi all'interno delle loro opere preferite. Appunto, e poi c'è un motivo legale, non si possono usare i personaggi di una serie o comunque di un film protetto da copyright senza pagare una fraccata di diritti, quindi era ovvio che noi non potevamo fare una cosa del genere. E comunque non era l'intento. No. E poi di per sé c'è un paio di racconti che fanno qualcosa tipo ripescare i personaggi o rileggere la trama da un altro punto di vista. Brillante quello di Eva Clesis, per esempio. Ma noi non lo diciamo troppo forte, perché poi arrivano quelli dagli... No, ma non in quel senso lì. Non, no, non in realtà quel senso, sì, no, quel racconto lì non aveva rispettato tanto, diciamo, le linee guida che avevo girato, proprio perché alla fine c'erano i personaggi del film, che però sono stati camuffati, sì, i loro nomi con le iniziali eccetera eccetera. Sì, infatti, però era un racconto talmente bello, tra l'altro è il mio preferito dell'antologia, che non si poteva non mettere. Poi smitizza un po' da un lato femminile quella trama, che è un po' troppo maschile effettivamente. Ma poi anche l'idea comunque è divertentissima, no? Che alla fine dice, ma Marti, cosa hai fatto? Sei andato indietro nel tempo per poi tenere le cose esattamente come erano prima, no? Che alla fine i nostri genitori erano sposati e alla fine sono sempre uguali, sono sempre sposati. È un po' cambiato lì il loro tenore di vita, ma alla fine per lei non è cambiato nulla, no? Poteva invece fare qualcosa di un po' più sostanzioso. Sì, poi in effetti nel film a un certo punto anche la fidanzata di Marty, che viene portata con loro, che poteva essere un personaggio interessante, però probabilmente diventava molto complicato gestire un altro filone narrativo, sì, anche dal punto di vista, quindi io non l'ho presa come un affronto nei confronti del genere femminile, lo dico da femmina o pseudo femmina, non so. Beh, credo che lì sia stata una vittima, il personaggio di Jennifer sia stata vittima banalmente dello script editor, cioè dovevano non far propagare troppo in là la trama, e poi probabilmente ciò che funziona bene in Ritorno Futuro è questa unità di luogo nei personaggi, e alla fine il terzo poi ribalta il ruolo di Doc e di Marty, diventa Doc il ragazzino e Marty l'adulto, c'è tutta una serie di cose che però funzionano finché mantieni circoscritto lo spazio. Beh, farei anche notare che dal punto di vista della storia nel secondo episodio c'è Marty praticamente triplicato nella stessa scena. Ad un certo punto è difficile gestire quella roba, esatto, lì, anche dal punto di vista proprio della scrittura non è che sia proprio una roba semplicissima aggiungersi per di più un altro filone narrativo. Non lo so, magari si può anche fare, però ecco, forse avrebbe deviato un po' troppo la storia. Certo, certo. E tu comunque, Andrea, ricordi una grande emozione nel momento di vederlo al cinema, giusto? Ti aveva colpito e ti è rimasto... No, in realtà non l'ho visto al cinema. Ok, quindi... fantastico. Ti sto invecchiando terribilmente. No, ma in realtà avrei potuto vederlo al cinema, ma non l'ho visto al cinema, l'ho visto poi... Vabbè, ok. Più tardi, poi l'ho visto tante volte in questo caso. Vabbè, faccio le domande, uno prova a fare le domande serie e le sbaglia, quindi a questo punto qua parliamo del non lo so, di Don Matteo. Secondo te c'è qualcosa che avreste voluto poter aggiungere altri racconti? C'è qualcosa che col senno di poi vi sarebbe piaciuto arricchire diversamente l'antologia, come ogni opera quasi sempre, una volta completata magari uno... Cioè Carlotta mi guarda male, forse perché ha paura che dica, manca il racconto di Carlotta, che gli era stato chiesto e poi dopo lei si è un po' pentita di non averlo scritto, però non voleva fare la raccomandata di turno e quindi non ha voluto scriverlo, però vabbè, nel senso... No, vabbè, io leggo, non scrivo. No, lei però scrive. Vabbè. Posso dire, Andrea, che per essere uno che come Mossad sei riuscito a far sparire la puntata di Morozzi, sei un po', fai uscire un po' troppi leaks... scopri un po' troppi altarini, deve essere forse evidente, è come Zorro che in realtà Don Diego della Vega fa tutto l'imbranato, poi in realtà sotto è Zorro. Ma anche Superman, anche Superman, a proposito di nerdate. Giustamente di nerdate, esatto. Avevi l'idea di scrivere anche tu un racconto e poi non hai voluto per dedicarti più alla cura degli no, altri. In verità io ho un po' un problema con la scrittura, però mi sembrava... Detto così sembra analfabeta. Sì, ho una brutta grafia, ma no, non nel senso che... Quella anch'io, scrivere... infatti non sei riuscita prima a leggere la mia scrittura. La mia è peggio. No, però mi sembrava poco corretto il fatto che insomma la moglie e l'editore scrive il racconto nell'antologia, allora un conto è lui l'editore che... scrive un racconto e lo inserisce nella sua antologia, ci può anche stare perché in fondo lui è uno scrittore che ha pubblicato anche per un grande editore, ha pubblicato per Fernandel che è un ottimo editore, ha pubblicato anche per Booksalad, dirlo no, insomma, comunque aveva già la sua credibilità di suo. Io no, però per dire, anche Roberto Gagnon e Michela Cantarella, in verità loro non sono scrittori, hanno esordito in questa antologia, però Michela Cantarella è una giornalista e Roberto Gagnon è uno sceneggiatore per Topolino e fa anche altre robe, io sono quella che sta dietro le quinte. Mi sembrava poco... insomma, limpido che lo facessi anch'io. Poi per altri editori... Vabbè, credo che sia lo stesso motivo adesso, al di là di questa antologia, il motivo stesso per cui Andrea continui a scrivere ma pubblichi per altri editori, pur essendo tu un editore. Sì, quello sì, però appunto in questa antologia, tra l'altro chiedendoglielo io, che ero anche il curatore, che ero uno e trino in questo caso, il curatore, editore... Anche vabbè, il fatto stesso di aver messo un flusso canalizzatore su una panda porta di diritto quel racconto dentro l'antologia, quindi... Ma sì, appunto dicevamo dello sdoppiamento e striplicamento di Marti, anch'io mi sono sdoppiato e striplicato, quindi ci stava, come dicono i giovani. Poi in verità c'è un motivo, il fatto che alle fiere è molto bello che ci sia sempre l'autore dell'antologia, così editore e autore può firmare. Ma c'eri anche tu, infatti potevi aggiungere una firma in più. Quindi questo comunque ha portato una semplificazione, quando si è dovuto pubblicare su un certo bisettimanale un racconto dell'antologia abbiamo fatto presto per sceglierne uno, non c'era bisogno di ottenere l'autorizzazione dell'autore, l'autore c'era. E riguardo all'antologia di Ritorno Futuro, però avete una presentazione qua a Settimo in programma molto presto, esatto, giusto? Esatto, questa domenica, quindi domenica 1 novembre alle 18 saremo all'Ecomuseo del Fraidano, e in questo periodo c'è una mostra di Cimeli su Ritorno al Futuro, e proprio all'interno di questa mostra ci sarà la presentazione della nostra antologia, interverranno diversi autori dell'antologia, quindi sarà anche un modo per sentirli parlare, per farsi autografare il libro e per sentire... Ma anche per chiacchierare con noi, perché a noi non piacciono tanto le presentazioni frontali dove uno sta lì e ascolta come se fosse una lezione universitaria, o almeno la media delle lezioni universitarie. Cercheremo di coinvolgere il pubblico, quindi siateci, venite a chiacchierare con noi. Ok, quindi l'appuntamento, ripetiamolo, che domenica 1 novembre alle 18 all'Ecomuseo del Fraidano qua a Settimo. Ok, perfetto. E la puntata è corsa via velocemente, quindi dobbiamo chiudere. Volete ancora farvi una domanda, darvi una risposta, come funziona in questi casi? No, vabbè, uno a volte ci prova sempre così. Carlotta Borasio, Andrea Malabaila, Las Vegas Edizioni, è stato un piacere avervi qui con noi, con me finalmente in una puntata senza ostacoli. anche se abbiamo avuto alcuni ostacoli, abbiamo un po' punzecchiato il povero Andrea. Che sono qua che piango. Sistematicamente ho dimenticato, ho perso un po' il filo, ho smesso di massacrarlo via Facebook. Adesso riprenderò che è il tiro a... La prossima antologia la facciamo su Don Matteo comunque. Ok, fantastico. Sulle imprese di Don Matteo, cioè, che 30 anni. Che prende la DeLorean. Don Matteo celebra il funerale di Chuck Norris. Vai. Ok. Alessandro Regia, grazie. Sono solo novelette, vi do l'appuntamento la prossima settimana e chiudiamo con un pezzo di Giorgio Gaber. Ciao. Ciao. Quando senza amore solo resterò, tornerò da te, ma non avrò parole, non sono già, ti dirò, ma già, ti dirò, ma già, ti dirò.